Piazza 24, i gialli della storia. La prima Radio Libera, antesignana delle Radio Libere che poi sono nate nel 75, 76, eccetera, era Radio Bari. Italia Combatte viene trasmessa ogni sera dalle 22.30 alle 22.50 da Radio Bari, metri 283. Cioè io vivevo nella mia città che è Foggia e ascoltavamo, o perlomeno io ricordo, non la radio, non l'EIAR, ma ricordo Radio Bari, che faceva delle trasmissioni già libere, faceva delle trasmissioni nelle quali sentiva la musica americana, ricordo la voce dell'America. Le radio libere, le radio private hanno portato molto avanti il discorso. Innanzitutto hanno portato avanti il discorso della radio improvvisata. La radio ormai si fa così. All'inizio erano molto ingenue. È indimenticabile la battuta di Woody Allen che in un film diceva: non parlare così, parli come una radio libera, cioè parli a vanvera. Questo fu il primo prototipo di radio libera in senso generico. Poi naturalmente c'erano le radio politicizzate, qualcuna di altro tipo. Dal 1976, con le prime antenne radio che coprivano solo pochi isolati, le radio libere entrano prepotentemente nel quotidiano degli italiani. Finisce il monopolio dell'etere, fino a quel momento appannaggio esclusivo della RAI, e si affronta un nuovo modo di concepire la comunicazione radiofonica. Da allora le telefonate in diretta, le dediche, l'improvvisazione, anche la comunicazione politica diretta e i nuovi generi musicali sono diventati un modo di fare radio da cui è impossibile prescindere. Quell'esperienza che sembrava velleitaria e minimalista ha cambiato per sempre la nostra vita di ascoltatori della radio, proiettandoci in un mondo che ci voleva protagonisti attivi e propositivi. Oggi a Mix24 racconteremo questa storia, una storia di libertà e di battaglie, una storia che ha spinto gli italiani direttamente verso il futuro e verso una partecipazione attiva. Ma sentiamo la voce di quelli che sono stati i protagonisti di quel momento, i conduttori radiofonici Marco Baldini, Gigio D'Ambrosio e Raffaele Palumbo. Anche questo è Controradio, 93700 MHz, Via dell'Orto 15 Rosso, telefono 225642. Benzina. Per me fu proprio scoprire un mondo nuovo. Io stavo ore e ore, arrivavo con le borse, le occhiaie la mattina a scuola, perché fino alle 3, alle 4 di notte mi sentivo la radio. Andare in onda e trasmettere quanta più musica fosse possibile era qualcosa che mancava, era qualcosa di cui i giovani, secondo me, avevano molto bisogno. Finalmente c'era la possibilità di ascoltare, fatto importantissimo, e far arrivare in tutte le case delle questioni escluse fino a quel momento. La gente impazziva dietro questo fatto che poteva partecipare nella radio, e quindi il cosiddetto fenomeno delle telefonate in diretta, in pratica con gli ascoltatori, è nato lì. C'era chi era insoddisfatto o chi maturava utopie e sogni di poter addirittura cambiare il mondo attraverso la comunicazione di massa. Sul quante erano è difficilissimo dare cifre esatte, perché non c'era una rilevazione ufficiale, in quanto non c'era ancora una legge che consentisse al governo di fissare le concessioni, eccetera, eccetera. E molte nascevano e morivano nel giro di pochi giorni. È un argomento un po' delicato, un po' difficile. Di fatto ce n'erano molte. Distinguere la leggerezza dalla pesantezza. C'erano radio come i 100 passi, quindi radio politiche, più o meno musicali, ma dove era fortemente orientata in senso politico, e radio come Radio Freccia, cioè radio musicali che esprimevano un disagio giovanile. Poi c'erano radio sempre politiche, ma prevalentemente parlate. Tu che sei iscritto al Partito Comunista. Di cui sostanzialmente sopravvive solo Radio Popolare a Milano e Radio Radicale. E poi c'era una vasta tipologia di emittenti locali legate a qualche boss che cercava di fare una radio che fosse influente nella sua comunità. Radio segnale radio di modulazione di frequenza diffuso da un gruppo di ragazzi parte da Milano. È il 10 marzo del 75. Radio Milano International comincia le trasmissioni. L'esperimento dura poco. Dopo solo 36 giorni di trasmissioni clandestine arriva la polizia a bloccare tutto. Ma sta per accadere un colpo di scena che cambierà tutto. Ascoltiamole dalle voci di Fausto Terenzi e Gigio D'Ambrosio. L'uomo che ebbe l'idea, tal Angelo Borra, con suo fratello Rino Borra, già, come dire, esperto radioamatore, decide, comprando un residuato militare, un trasmettitore da poche decine di watt, di cominciare a irradiare piratescamente da una antenna di Milano. Pensavamo che ci ascoltassero a milioni, invece l'arco, diciamo, l'area di ascolto era praticamente limitata ai 4, 5, 6 quartieri. Poi piano piano con le antenne che hanno installato siamo andati a finire. Oh, ci hanno chiamato da Bergamo, oh, ci hanno chiamato da Pavia, oh, ci hanno chiamato da Brescia. Da 21.05 minuti primi e 24 secondi, Claudio, microfoni per presentare Baby Hustle. Il bello della radio, la canzone famosa dei Buggles, no? Video Kill the Radio Star, era che attraverso una voce si poteva lasciare immaginare, far sognare qualsiasi cosa a chiunque. Era veramente la vera sfida. You're listening to the Fausto Terenzi Show. Eravamo penosi, però ci mettevamo l'anima, hai capito? L'Escopost, che era, o forse ancora è, la polizia che regola le leggi dell'etere, arriva nella sede da cui veniva irradiato il segnale, in via Locatelli a Milano, e sequestra tutti gli impianti. Entrano e senza dire né A né B ci portano via. Il giudice ordinò però il dissequestro degli impianti, autorizzando le trasmissioni di Radio Milano International purché non interferissero con le frequenze della RAI, e fu una sorpresa per tutti. Di fatto sancisce ufficialmente l'inizio di un'era, la fine di un'epoca per il monopolio evidentemente della RAI, e l'inizio di un'era che poi è cresciuta esponenzialmente nei primissimi anni con migliaia di radio in tutta Italia, poi successivamente con le televisioni, insomma il resto è davvero storia. Una vera rivoluzione suffragata da una sentenza del 1976 che introduceva il concetto di libertà d'antenna. E da allora le radio libero nacquero centinaia, la stagione dei 100 fiori. Ma in quel momento in cui si percepiva una voglia di rinnovamento, che cosa mandava in onda Radio Rai? Lo sentiamo dalla voce di Maurizio Righanti, ex dirigente Rai. Era molto tradizionale. Molte musiche italiane, molte edizioni perfette, molte cose così, proprio eravamo la RAI, il monopolio, quindi per carità eccetera. E la censura, ci dica signor Righanti, c'era la censura in RAI? Beh, la censura era praticamente questa, c'era in una sala, ci si riunivano alcuni vecchi maestri di musica e c'erano alcuni programmatori, per cui qualche volta sono andato anche io, eccetera, eccetera, e si ascoltavano dei dischi. In realtà questa commissione era molto appetita, perché veniva anche giù il bar e distribuiva spremute d'arancio, bevande di tutti quanti i tipi, insomma, e allora loro si sentivano un po' importanti e pontificavano un po' su queste cose. Ora sono successe anche delle storie terrificanti, fra cui quella anche di alcuni dischi dei Beatles, che questa commissione dice no, questo non può andare perché è distorto. Qui ci hanno messo un anno per fare quella musica, quel suono. Ma anche in Rai c'erano delle isole felici dove la censura era meno sentita. Programma dedicati a un pubblico giovanile, orari precisi in cui i ragazzi prendevano possesso della radio di casa e si rifugiavano in luoghi appartati per un ascolto che fosse autonomo e individuale. Le trasmissioni di riferimento erano Per voi giovane, Super Sony, Kid Parade, ma soprattutto Bandiera Gialla e Alto Gradimento. I Beh, Bandiera Gialla nacque dalla collaborazione tra me e Gianni Boncompagni, però ci dissero con nostro grande dolore dovete chiamare la trasmissione Bandiera Gialla. Perché? Perché Bandiera Gialla significa, significa che c'è una quarantena, che è un titolo alibi, voi potete fare tutto, però avete questo simbolo della bandiera gialla, che è quella che si mette sulle navi quando ci sono gli appestati, eccetera. Il provvedimento nacque invece per protesta contro, vogliamo dirlo, contro le atmosfere del 68, che allora politicizzavano un po' tutto. Insomma, in quegli anni lì si rideva pochissimo. Quindi, rincontrandoci io e Gianni, diciamo, perché non fare una trasmissione di evasione, di assoluta evasione, che non abbia né cose politiche né altro tipo di impegno? E quindi andammo dall'allora direttore della radio proponendo una ragione sociale del programma, che naturalmente fu subito bocciato perché si chiamava Musica e Puttanate. Naturalmente il direttore trasecolò, disse così non si può chiamare, cercate un altro titolo, e diciamo benissimo, allora il titolo può essere, io ero per basso gradimento perché ho sempre avuto la tendenza a fare l'altra radio, l'altra TV, le altre cose, non cercando di insomma inseguire il successo. Boncompagni vinse perché disse facciamo alto gradimento, così la gente crede veramente che abbia un alto gradimento. Ad alto gradimento le radio private devono molto, perché è da lì che è nata l'improvvisazione come modo di proporsi davanti a un microfono. L'improvvisazione diventa una ricchezza con cui è possibile trasferire su un mezzo pubblico le battute, i commenti e le osservazioni della vita di tutti i giorni. Quello che si poteva sentire nel bar sotto casa o durante una lunga attesa alle poste. Ma c'è un altro padre spirituale della programmazione del Radio Libere, almeno per quanto riguarda la musica. Le radio pirata del Nord Europa, la racconta Federico, l'olandese volante. Le radio pirata nel Nord Europa innanzitutto erano delle radio installate su delle navi ed erano nel mare del nord. Esattamente quasi nel stretto della Manica davanti alle coste olandesi, se uno traccia un cerchio di 200 km dentro nel cerchio hai Parigi, Londra, Anversa, Amsterdam, insomma un ascolto più o meno di 20-30 milioni di persone. Qualcuno molto furbo installò trasmettitori di onde medie su queste navi, che erano dei vecchi pescheggi, e cominciò a trasmettere. La prima fu Radio Londra, poi Radio Veronica, Radio North Sea, Radio Dolphin, Radio North Sea International, che trasmettevano la maggior parte in inglese, a parte Radio Veronica, che era appunto in olandese. Io ho avuto il piacere di lavorare per Radio Veronica, facevo una hit parade il giovedì, ed è stato un fenomeno molto importante soprattutto a livello musicale e soprattutto a livello moda. I Beatles non sarebbero mai diventati Beatles senza le radio pirata, perché la BBC si rifiutò all'inizio di passare i loro dischi. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow. Il vero motore di quella prima fase delle radio libere era la musica, e allora i DJ divennero veri miti. Jerry Scotti, Linus, Cecchetto, Amadeus devono il loro successo a quelle prime esperienze, e accanto alle radio con una programmazione essenzialmente musicale sono nate anche le prime radio politiche, come Radio Popolare a Milano, che esiste ancora oggi. Salita agli oneri della cronaca in occasione della diretta per gli scontri di piazza, in occasione della prima della Scala del 7 dicembre del 76, ne parla il fondatore Piero Scaramucci. C'era un grosso problema per i movimenti della sinistra, che comunicavano con volantini, con giornali, con riviste, uno strumento assolutamente insufficiente per entrare in rapporto con le larghe masse. C'era questo bisogno, questo sogno di riuscire a parlare con tutti. E quando si è cominciato a rompere il monopolio Rai, noi abbiamo intravisto uno spazio possibile. Nacque un progetto di una radio popolare, da cui poi il nome, perché non si trovò niente di più brillante allora. Una radio che nasceva sicuramente dalla cultura della sinistra, si faceva carico dell'esperienza storica della sinistra, ma non era inchiodata alla targa di un partito, di una sigla, di una identità settoriale. La prima trasmissione che inventammo, subito all'inizio, autunno del 76, fu Microfono Aperto, che allora non esisteva. Un microfono aperto come? Telefono aperto, la gente telefona e va in onda direttamente, senza filtri, senza interventi preliminari. La notte della prima della Scala, i nostri cronisti seguirono i gruppi che non proprio incendiarono Milano, ma fecero, diciamo, dei fuochi d'artificio percorrendo tutta la città. E noi lo raccontammo in diretta. Lì sta anche un capostipite dei master di Radio Popolare, che è la diretta. La diretta non soltanto come artificio professionale, artificio radiofonico, ma proprio come intenzione di raccontare le cose al vero nel momento che succede. Ecco, dunque, noi stiamo entrando col corteo di Margo Ricchini, quando improvvisamente abbiamo avuto delle ostiche e delle esplosioni. Il corteo si è sciolto, noi siamo accorti verso la parte della statale. Non c'erano i telefonini, i cronisti avevano manciate di gettoni, o suonavano ai campanelli delle case, svegliando le persone, dicendo scusi, mi lascia telefonare. Fu raccontata questa notte dall'esterno della Scala con i nostri cronisti, dall'interno della Scala con una straordinaria cronista che era Camilla Cederna. La radio diventa così un'occasione, una possibilità, come quelle rappresentate da Radio Radicale, che trasmette in diretta le sedute del Parlamento, i congressi dei partiti, cambiando la percezione del mondo stesso della politica. L'idea della radiopolitica in realtà era nata qualche anno prima, quando Danilo Dolci cominciò a trasmettere in Sicilia dopo il terremoto del Belice del 70. Il nome della radio era Radio Libera e l'intenzione era quella di dare voce ai protagonisti di quel disastro. La radio riuscì a trasmettere solo per 27 ore, ma furono sufficienti per creare un caso politico nazionale. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto di enorme gravità, assurdo. Si lascia spegnere un'intera popolazione. La popolazione delle valli del Belice, dello Ianto e del Carboi, la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire. Abbiamo noi intervistato decine e decine di persone della zona terremotata per vedere qual era la situazione comune per comune, ecco, cosa pensava la gente, cosa desiderava, cosa avrebbe voluto. A scuola, quando tira vento, da sotto le fessure entra freddo e quindi siamo costretti a stare col cappotto e quindi è molto difficile scrivere. Noi avevamo bisogno di cura, perché dentro queste barracche noi altri stiamo perdendo la salute. Abbiamo bisogno di aiuto, perché abbiamo fatto 63 anni le terremotate e il vero terremoto comincia ora. E la sera, verso le 10:30 del giorno successivo, ecco, sono arrivate le forze dell'ordine, sono entrate, subito hanno spento la radio, hanno sequestrato tutto. Quando siamo scesi, con grande sorpresa, abbiamo trovato lo spiazzale lì davanti Palazzo Calia pieno di giovani. Erano già quasi le 11. Ecco, e poi i giovani ci hanno detto che erano venuti ed erano loro disposti a fare una barriera umana, proprio in qualsiasi modo cercare di impedire che ci portassero via nell'ipotesi in cui ci avessero voluto arrestare. Ed è proprio nel solco tracciato da Danilo Dolci che si svilupparono le radio di sinistra, che raccontarono meglio di chiunque gli anni di piombo e le contestazioni, come Radio Alice a Bologna contro Radio a Firenze e Radio Città Futura Roma. Ma nonostante questi esempi, il grosso della programmazione delle radio libere non è politicizzato ed è piuttosto orientato verso la leggerezza, le dediche, il telefono aperto usato come confessionale. E poi radio regionali, religiose o dedicate alla lotta alla mafia come Radio Out di Peppino Impastato. Ma in ogni caso quella stagione ha segnato un'epoca e un cambiamento radicale nella comunicazione. Prima la riforma, poi le radio libere favorirono la fine di una radio parlata come se fosse scritta, che era quello che era stata la Radio Rai per tanti anni. Cioè anche quando si parlava a braccio si faceva finta di parlare, di leggere un testo. Diciamo che il passaggio è stato l'inversione, anche quando si legge si deve far finta di parlare a braccio. Nasce un certo tipo di cultura della diretta, non è che prima non esistessero i radiocronisti e le dirette, ma la diretta nelle masse, gli avvenimenti raccontati dai partecipanti, beh, quello è una chiave che nasce con le radio libere. Poche cose davvero, guardate, come la radio hanno cambiato la quotidianità, certi comportamenti diffusi sia tra i giovani, soprattutto tra i giovani, il target fondamentale della radio, ma anche delle generazioni o tra le generazioni più adulte, non vi sarebbero stati senza la radio. Cioè la radio come cult, la radio come luogo trendy, come punto di riferimento. E nella musica, senza le radio libere, oggi saremmo chissà a quale stagione preistorica. È stata una grande spinta che negli anni Ottanta poi si è sviluppata e nella crescita delle radio più importanti, anche commerciali per carità, ma più solide, e il paesaggio radiofonico resta profondamente diverso dal paesaggio televisivo. In televisione noi abbiamo due aziende, la Rai e Mediaset, che si dividono il 90% degli ascolti e delle risorse. In radio ci sono 15 soggetti, 15 radio nazionali, c'è una cinquantina di radio diciamo locali ma molto grosse, tipo Radio Subasio, che ha la dimensione di una radio nazionale, e nessun soggetto ha più del 10% dell'ascolto. Quindi un panorama molto più plurale, e dove c'è uno spazio all'emittenza comunitaria e all'emittenza locale che non esiste più in televisione. Oggi siamo di fronte a un'altra scommessa: le radio web che si possono ascoltare su smartphone e computer. Piccole emittenti autonome che si possono realizzare anche con mezzi modestissimi. Probabilmente siamo di fronte a una nuova rivoluzione che ci regalerà emozioni e esperienze alternative, ma qualunque novità si possa introdurre e realizzare sarà comunque figlia della straordinaria stagione dei 100 fiori e delle sue radio libere. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.